Non è che stai pensando in un prossimo futuro di fare l'allenatore per caso? No, sono presidente, allenatore e giocatore. Facciamo tutto insieme. Però mi pagano solo come calciatore. Quello è unica negativo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Alessandro taglia, diventa un assist per Rebic, 4-2 Milan, blackout bianconero. È arrivato Ibra ed è venuta piano piano fuori la personalità di questa squadra. È così? La pensi così? No, penso che hanno fortuna, perché se ero qua da primo giorno vincevamo scudetto. C'è ancora un mese per divertirmi e poi c'è cose che sta succedendo qua che non siamo in controllo. Mi dispiace per i tifosi, perché può essere che l'ultima volta che mi vedono live. Perché? Leggi fra le linee. Nel prossimo Milan ci sarà spazio ancora per Maldini? Io questo non lo so, io voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, possiamo raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati e poi arriverà naturalmente il momento di decidere il nostro futuro. Non sto pensando assolutamente a cosa succederà il 3 agosto, perché sto troppo bene con la mia squadra, mi piace troppo quello che stiamo facendo, quindi quello che sarà e si vedrà, ma non sono per niente preoccupato per il mio futuro, ma sono solamente concentrato e volenteroso di finire bene questo campionato, perché il lavoro che stiamo facendo sarebbe giusto toglierci ancora qualche soddisfazione. Bene, nel momento più surreale della stagione, estremamente interessante, ma più surreale della stagione, come surreale è stata la partita, molto interessante e molto divertente la partita di ieri sera, raccontata da Pierluigi Pardo. Il tuo radio tweet, Pier, oggi per cos'è? Beh, il mio radio tweet è che c'è poche cose più letterarie di quello che si è visto ieri, soprattutto dal punto di vista del Milan, che insomma ieri ha regalato spettacolo a 360 gradi. Da prima, dopo il fischio finale, si è regalata una grande partita, bellissima, e lo spettacolo l'ha fatto nel pre e nel post, con delle dichiarazioni che sicuramente non sono banali, no. Però insomma è stato veramente, cioè, a vederla da fuori è spettacolo allo stato puro, poi a pensare al Milan di queste ore, di queste partite che ho avuto la fortuna di commentare contro la Lazio e contro la Juve, veramente ti viene da pensare, ma perché che abbia ragione Ibra. Insomma, voglio dire, o perlomeno costruisca una sintesi, allora, è tutto migliorabile, però insomma, allora, come la partita di ieri sera è come spiegare a un marziano il motivo per cui il calcio ha così tanto successo tra gli umani, tra i mortali della terra. Io sono due giorni invece che muoio dalla voglia di sentire, di sapere il pensiero di Carlo Pelegatti. Adesso lo sento. Ciao Carlo. Sì, buon pomeriggio a tutti, siete stati squisiti, invece di parlare delle quattro rose di ieri mi avete messo le tre stine, poi mi mancava solamente Donnarumma e mi mettevate la quarta stina, però, Maldini, che Scioli, l'abbiamo deciso ieri, l'abbiamo deciso ieri, non sapevamo che Ibra avrebbe parlato, Maldini avrebbe parlato. Quindi, certo, sono i quattro problemi del Milan di oggi, un Milan che dovrebbe solo essere esaltato per i 13 punti nelle ultime quattro partite, per il quarto posto nel 2020, dietro Juventus, Atalanta e Lazio, e invece vengono fuori questi problemi, giusto no cambiare Piole, perché lasciare andare via Ibra, che cosa succederà di Maldini, eccetera, eccetera, e sono i problemi che in questo momento arrovellano i tifosi, invece di farli godere per questa bella fase della stagione. Sì. Allora, partiamo dal godimento, perché quello che dice Carlo è giusto, è condivisibile, e il Milan merita di essere celebrato. Io ti ripeto, ho avuto la fortuna di fare queste due telecronache, quindi l'ho vista dal vivo, e quando vedi le cose dal vivo ti fanno un effetto ancora diverso. Io sono impressionato da questa squadra, sono impressionato dalla condizione fisica di questa squadra, sono impressionato dalla crescita di alcuni giocatori, faccio dei nomi, Bennacer, che sì, anche giocatori che hanno comunque, anche lo stesso Kier, ieri c'è stato quell'errore sul 2-0, ma insomma complessivamente... Beh, grande stagione Kier, grande stagione. Appunto, Conti sta tornando a essere un giocatore di un certo livello, Teo Hernandez manco a parlarne. Salemaker, lampi anche lui, ieri sera magari meno, ma qualche lampo anche da questo qui, insomma, è chiaro che il Milan è una squadra diversa. So, vabbè, possiamo fare tutta la squadra, Rebic, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da lì, Carlo. Tu che cosa, vabbè, quanto hai goduto ieri, questo è il punto di partenza, e che cosa cambieresti, che cosa terresti, qual è la base di... Se tu fossi Gazzidis, il signor Pelle Gazzidis, che farebbe? Ma guarda, Pelle Gazzidis ha già deciso, no, Gazzidis ha già deciso di tirare una riga da rispetto al passato. Lui ha un ragionamento molto lineare, non voglio farmi influenzare dagli ultimi accadimenti, anche se positivi. Lui pensa magari che il calcio italiano non sia più al massimissimo livello, anche perché ondivago riguardo a dei progetti. Lui il progetto probabilmente l'ha già deciso con Ragnar, è un modo nuovo di intendere anche il management di una squadra, e quindi non credo che si faccia influenzare, pur essendo molto contento, perché soddisfazione, il Milan potrebbe anche arrivare dietro le prime quattro, visto che è in lotta totale con Napoli e Roma. Quindi secondo me non cambierà. Le parole di Ibra però sono state dolorose, perché sarà lui che forse vuole andare via, ma non escludo che possa essere un messaggio alla società. È indubbio però che Ibra non può dettare le righe della società, e alla società non è molto piaciuto quel faccia a faccia negli spogliatoi di qualche settimana fa. Sì, io dico che se non vuole più fare il giocatore, non vuole fare l'allenatore, può fare il leader politico, perché quelle sono parole da leader politico. In ogni caso, Carlo, mi sembra che la situazione somigli in modo sinistro a quella di 12 mesi fa, dove c'era Gattuso che se n'è andato via con il certificato di una buona stagione e la medaglia dell'aver creato un gruppo. La stessa cosa farà Pioli, e quindi l'abbiamo detto molte volte, come nel gioco dell'oca rossonero torna al via. Però con un cambiamento, che l'anno scorso c'era un management non voluto dalla proprietà, quest'anno sembra che invece la proprietà affidi le chiavi a Ragnik e affidi proprio il futuro del Milan a questo manager. I tifosi ovviamente non sono contenti, perché vorrebbero, lo stavi sottolineando tu, quella continuità che manca da ormai diverse stagioni. E quindi in questo momento c'è questa perplessità. Però non dico rassegnarci, però dobbiamo proprio pensare che ci sia un taglio netto col passato. Pioli ha un contratto che parla chiaro, confermato se arriverà in Champions League, cosa che ovviamente adesso è impossibile. Quindi queste sono state le decisioni della società. È solamente che adesso tutti i tifosi, io ho usato una battuta, da padre Pioli è diventato Papa Stefano XIII Pioli, perché sembrava un buon padre francescano. Sì. Adesso con questi ultimi 13 punti, con questo modo di giocare, fisicamente il Milan sta benissimo, è la squadra che sta meglio insieme all'Atalanta, e adesso diventa difficile decidere, ma la società secondo me ha già deciso. Sì, la società ha già deciso, mi sembra tutto molto chiaro. Se è diventato Santo Stefano, padre Pioli, l'anno scorso Pierluigi, e torno lì, Gattuso era San Gennaro, non dall'anno scorso, perché era da un sacco di tempo, sì, per i milanisti. Però è curioso notare il parallelismo con un gruppo che lo voleva, un ambiente che lo voleva, qualcun altro non lo voleva più. Gattuso è andato a far benissimo a Napoli. Io sono d'accordo con quello che dice Carlo, cioè bisogna stare pure attenti a non farsi troppo condizionare dall'emotività di queste ore, però non si può neanche prescindere da quello che vediamo. Quello che vediamo è un gruppo compatto, è un ambiente che nel momento di maggiore difficoltà, in cui sembrava potersi disgregare, attorno a questo allenatore invece si è profondamente ricompattato. Cioè questo è oggettivo. Poi Ragnic per me non merita il massimo rispetto. Sono d'accordo con Andrea Di Caro che ieri diceva, insomma, non è che si può considerarlo un pirla, come dicono a Milano, semplicemente perché la gestazione di questa iniziativa non è stata del tutto lineare. È un allenatore di prospettiva, è un manager di prospettiva, quindi è un'idea chiara, precisa, e l'augurio ai tifosi rossoneri che faccia bene. Bisogna trovare una sintesi. Ora, non è facile trovare una sintesi, anche perché c'è una quantità di personaggi. Boban è uscito dai giochi, qua c'è Maldini, c'è Ibra, c'è Pioli. Cioè, non è facile mettere tutte le caselle al loro posto, forse è anche impossibile mettere tutte le caselle al loro posto. Però il dubbio oggi ce l'ho. Oggi il dubbio fra riforma e rivoluzione io ce l'ho in testa. Sì, cioè, se sia meglio cambiare tutto, sì. O se partendo da questa base con 2-3 investimenti mirati e con una compattezza diversa invece credere in questo progetto. Perché il rischio, come dici tu, è che ci sia un Gattuso bis. Se tu puoi darti un allenatore che va da un'altra parte, fa bene, perché comunque conosce il nostro calcio e perché è una persona seria. No, ma poi è anche, insomma, l'ultima cosa che voglio considerare con Carlo Pellegatti è questa: le linee del progetto che verrà sembrano abbastanza chiare pure, no Carlo? Quindi anche lì si riparte da un manipolo di giovani magari di buon talento, da pochi giocatori di esperienza. Io faccio notare il tuo pensiero sui... Quelle cose lì però, scusami, sono tutte cose che si... Abbiamo mai parlato con Ragni. Il Milan è circondato da leggende, no? Sì. Quindi può darsi che sia così, però non è detto che sia così. All'esperienza di Ibrahimovic è servita per capire che forse possono prendere giocatori anche esperti. Ragni che viene qua, se dovesse venire, usiamo sempre il se perché la proprietà ci dice sempre che non è nulla è firmato, anche se molto probabile. Però bisogna vedere che cosa lui ha vinto. Ha battuto l'Inter nello Schalke con Raul 33enne centravanti, quindi voglio dire... Ma infatti non è un pirla, ragazzi, non scherziamo. No, ma non stiamo discutendo del valore generale, quello lo scopriremo. È molto semplice, riforma o rivoluzione? Cioè, ricostruisco completamente con un progetto nuovo oppure mi fido di questi, do qualche risorsa in più? Io la risposta non ce l'ho, è un dibattito aperto. Quello che non è da Milan, perlomeno dal Milan... che siamo abituati a conoscere e che Carlo racconta meglio di chiunque altro, è tutta la spy story. Ecco, cioè succedono delle cose che onestamente, abituati a 20 anni, 30 anni di comunicazione di un certo tipo, fanno un po' strano al Milan. Non so questo è un altro dei punti che la proprietà vuole cambiare, cioè questi spy story, queste ipotesi, queste indiscrezioni. Ognuno esce perché ha parlato con XY. Questo perché ti ricordi che anche ai tempi dell'ultimo Silvio Berlusconi, essendoci le diarchie, eccetera, c'erano tanti punti riguardo, non si sapeva, si diceva, si supponeva. Ecco, una delle cose che vuole la proprietà il prossimo anno, scusate, che non ci siano più queste situazioni, questi partitini, queste idee l'una diversa dall'altra. Ecco, la coesione è un'altra cosa che cerca la prossima anno la proprietà di raggiungere. Sì, che poi non è detto che, insomma, qualche volta il taglio col passato non sia propedeutico a qualcosa di nuovo, di diverso, e tu ti ricordi benissimo quale fu la prima mossa di Berlusconi quando arrivò al Milan. Ma anche la seconda con Fabio Capello. Il problema è un altro ancora. Ci sono giustamente delle perplessità, non tanto sulla figura di Ragni, allenatore, direttore sportivo e plenipotenziario che viene da un altro mondo. L'altra perplessità è questo Milan che con un manager, diciamo all'inglese per renderla facile, sono tutti salti non facilmente pronosticabili come finirà questo salto. Certo. Sì Carlo, brutalmente per chiudere, il tuo pensiero su Ibrahimovic lo conosciamo, ne abbiamo parlato a lungo quando doveva arrivare e lo volevamo, certo. Tutti quanti anche cartonato come dicevi tu, insomma parliamoci chiaro, ha cambiato questa squadra, perfino quando non ha giocato, quando è stato infortunato, il Milan con Ibrahimovic è un'altra cosa. È un'altra cosa, costa tanto, vale tanto quello che costa, forse una mossa bella di rugby sarà quella di capire bene e magari coinvolgere, non è facile, Ibrahimovic nel progetto. Vale la pena, secondo me. Grazie Carlo. Un abbraccio. Ciao. A tutti, un saluto grazie a Piera, a tutti. Grazie Carletto, grazie. Ciao. Carlo Pellegatti. Vale la pena, sono d'accordo. D'accordo, e al netto di tutto, adesso parleremo ovviamente di Juve, la personalità di questa squadra, a me sembra che questa squadra, la personalità di Ibra si esprima quando è in campo, ma anche quando è in panchina. Esatto, Pierluigi. Esatto, sembra che lui veramente abbia un ruolo. Quando lui giocava alla fine, in maniera forse anche un po' polemica, su presidente, allenatore o giocatore, o forse semplicemente per fare una battuta, non lo so, però non è del tutto sbagliato, perché Ibra onestamente questa roba qui ce l'ha. Poi è ovvio che, come tutte le persone, deve capire come si sta al mondo, deve capire che ci sono altre persone, che c'è una società, che qualche volta serve la diplomazia. Però un Ibra connesso alla società e al mondo rossonero, ad avercene, sì, il fatto che di figure così. No, ma di sicuro il problema è che lui l'ha già detto, se resto non è certo per fare la mascotte, ma poi vedi come tutti pendono dalle sue labbra, no? Il primo che vanno a ringraziare è lui, il primo che vanno ad abbracciare è lui, e Leon che dice... Beh, Ibra mi ha detto che sono un grande giocatore, mi sto convincendo anch'io. Insomma, vedi proprio come tutti quanti questi ragazzi si muovono intorno al totem. E di totem, secondo me, in una squadra che vuole avere ambizioni, ce n'è bisogno. Fermiamoci un istante e poi andiamo sul fronte di quella pazzia che è stata la partita della Juventus di ieri sera. Non c'è niente da fare. I tre fuori classe, ancora vecchietti, ma che fanno la differenza, sono Ronaldo, Messi e Ibra. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo fatto 60 minuti, penso, di livello mondiale. Eravamo in pieno controllo della partita. Dobbiamo dimenticarci il blackout, perché poi fra 3-4 giorni torniamo nuovamente in campo, quindi non è neanche il caso di star lì a farci tanti processi addosso. Tanto poi le vere motivazioni di questi momenti inspiegabili non si trovano neanche. Questo era ovviamente Sarri. Andiamo a Tutto Sport. Direttore Xavier Cobelli, ciao. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport. Io penso che la partita della Juventus di ieri sia stata talmente surreale da non essere indicativa di nulla, o quasi. Ma guarda, noi avremo una probante controprova sabato sera con l'Atalanta. Indipendentemente dalla resita della partita di questa sera dei nerazzurri con la Samp, che li vede inseguire a una vittoria consecutiva. Ma mai avversari potrebbe capitare più a proposito. Certo. Può sembrare paradossale, considerata la forza della squadra di Gasperini, ma dopo il blackout di ieri sera, che ha fatto seguito a quei 60 minuti di cui parlava Sarri, una controprova è assolutamente importante. Fermo restando il fatto che se bisogna riandare con la moviola della memoria all'ottobre del 2013 per trovare una rimonta paragonabile a quella subita ieri sera a San Siro dalla Juventus, questo significa che sia la difesa il primo reparto da registrare, e conferma l'insostituibilità di De Ligt. Sì, anche se la Juventus nelle ultime 6 partite, da quando è ricominciato tutto, ha subito soltanto 2 gol, peraltro ininfluenti. Ne ha subiti 9, ne aveva subiti fino a ieri sera 9 in totale in campionato nel 2020. Ora si è preso un giro di giostra, ed è chiaro, nel momento in cui era già sotto l'ombrellone con la sconfitta della Lazio, di cui poi peraltro parleremo. Non credo, Pierluigi, che si possano trarre, dicevo, indicazioni di sistema. Cioè, oggi tutti a dire: ah, ma con Allegri quei gol non li avremmo presi, ah, ma con Conte non avremmo preso quei gol, ah, ma con Chiellini o De Ligt, eccetera. È stata una bambola totale, è quasi inspiegabile. Sì, detto questo, siccome in stagione altre cose sono successe, la Juve è in testa alla classifica, nella dialettica con la Lazio la giornata di ieri è stata addirittura favorevole per la Juve, perché sulla carta penso che qualsiasi tifoso della Juve avrebbe firmato di mantenere la stessa distanza con una giornata in meno, considerato che le avversarie erano il Milan, e con tutto il rispetto il Lecce, che sta bene, ma è comunque il Lecce, non è il Milan. Però è pure vero che noi in questa stagione abbiamo visto la Juve perdere nettamente la Supercoppa italiana, la Juve perdere la Coppa Italia, e insomma, cioè l'istinto da killer, l'istinto, il cinismo della squadra che non si distrae, che chiude, non l'abbiamo ancora visto. Probabilmente arriverà. Io non escludo che la botta anche psicologica di ieri possa far bene alla Juve, come ha fatto bene la sconfitta in Coppa Italia. Dopo la sconfitta in Coppa Italia la Juve è scesa in campo con una testa completamente diversa. Sì. Però insomma, ieri ragazzi, ieri alle 23, che era alle 23:10, il campionato era finito. Oggi certo. Non è finito. Rientra in ballo la Lazio, anche se sta messa male. L'Inter si morde le mani, però vincendo a Verona potrebbe riavvicinarsi. L'Atalanta addirittura facendo filotto fra Samp e Juve può andare a meno 6. Cioè, per carità, io credo che la giornata di ieri, considerando la Lazio come principale antagonista, sia una giornata favorevole per la Juve. Però ecco, la domanda uno è giusto che se la faccia, perché la Juve fa delle cose non da Juve quest'anno. Poi la prima ora mi è piaciuta, sì. Io l'ho detto, Guidolin, la Juve era in controllo, sul 2-0 era in controllo, ma non cambio idea. Certo. Stava giocando bene e ha, secondo me, delle cose molto positive. Cristiano Ronaldo sta benissimo. Ci sono dei giocatori cresciuti, Bernardeschi sta meglio di come stava prima, Bentancur, Rabiot ha recuperato dei giocatori. Uh-huh. E poi l'ultima annotazione, ieri si è sentita paradossalmente più l'assenza di De Ligt di quella di Dybala. Sono d'accordissimo. Perché secondo d'accordissimo. Me già i Chiellini fuori, De Ligt fuori, ma Rugani ieri non ha fatto particolarmente bene, Bonucci non ha fatto particolarmente bene. Viene da dire che con De Ligt più che con Allegri quei gol non li avrebbe presi. Direttore, sei d'accordo con l'analisi di Pierluigi? Sì, sono d'accordo e aggiungo che bisogna anche evidenziare i meriti del Milan e i meriti di Pioli. Davvero la rincorsa del Milan, se noi ripensiamo alla situazione che Pioli aveva trovato quando prese il posto di Giampaolo, che non aveva avuto dalla sua parte risultati e la sua avventura è stata fin troppo breve alla guida del Milan per poter essere giudicata con compiutezza, 7 partite soltanto. Però Pioli ha lavorato sodo, ma soprattutto se noi diamo un'occhiata all'età media di questa squadra, ciò che stride è che il Milan abbia deciso di puntare su Rangnick quando ha un signor allenatore, quando ha giocatori come Ibrahimovic, come Leao, come Rebic, tanto per fare nomi, che al Milan sono stati portati da Boban e da Maldini, perché questo bisogna ricordare. Ed è veramente paradossale che all'indomani di una vittoria eclatante, quale è stata quella di ieri sera, che ha sigillato una debacle memorabile per la Juventus e un trionfo, una grande soddisfazione per il Milan, si debba parlare del futuro, di chi arriverà dal 3 agosto e bla bla bla. Noi proviamo a metterci nei panni di Pioli che da dicembre, sottolineo da dicembre, e noi siamo a luglio, deve sopportare questo stillicidio di anticipazioni, sa benissimo quale sia la situazione. Boban la raccontò l'8 marzo scorso, all'indomani del suo licenziamento, che ancora risulta un oltraggio alla storia del Milan perché non si fa così. E adesso Maldini. È una cosa francamente che io non riesco a capire, non riesco a trovare una ragione fondata per cambiare ancora una volta, e negli ultimi 3 anni siamo al quarto o quinto ribaltone a livello anche dirigenziale, quando invece le cose funzionano e quando c'è un signore come Pioli che sta lavorando benissimo. Sì, credo che Pioli però l'avesse messo nel conto nel momento in cui ha firmato per il Milan, cioè andava in un club che stava cercando una strada, ma c'era già allora molta confusione e c'era già allora poca chiarezza di idee, di intenti, quindi questo va ricordato certamente. No, tornando per un attimo alla Juventus invece, è strano come questa debacle sia arrivata in un momento, peraltro io condivido quanto ha detto Pierluigi, in cui la Juventus dopo una ripresa così dava l'immagine di una squadra in crescita, ha recuperato giocatori, ha recuperato anche in qualche frangente bellezza, certamente solidità, dato che non prendeva mai gol. Ieri ne ha presi 4 in un pugno di minuti e francamente è inspiegabile, direttore. Sai, io sono molto curioso di verificare la reazione della Juventus sabato sera. Perché questo? Perché la prima ora era stata davvero molto brillante. Sì. Forse il compendio assoluto, una sorta di bignami del calcio di Sarri applicato alla Juventus. E Pierluigi sottolineava lo stato di forma di Cristiano Ronaldo, che ieri ha segnato la 30ª rete della sua stagione, e questo signore di 35 anni continua a stupire, e non è un caso che sia la 730esima della sua vita. E non è un caso che sia stato l'ultimo ad arrendersi, ma d'altra parte tutto questo si attaglia perfettamente al personaggio. Ecco perché secondo me questi due giorni di riflessione, di analisi, ne avranno di cose da dirsi nello spogliatoio della Continassa, Sarri e i giocatori saranno importanti per capire se sia stato un blackout, che può capitare semeno ogni quasi 7 anni, visto che l'ultima debacle di questa portata risaliva all'ottobre del 2013, Fiorentina-Juventus 4-2 dal 2-0 iniziale per i bianconeri, per capire se si tratti di un blackout occasionale o se invece, come veniva sottolineato poc'anzi, si tratti di una deconcentrazione che non si addice alla caratura e alla solidità e alla determinazione della Juventus, che comunque può consolarsi perché in virtù del successo del Lecce il vantaggio sulla Lazio è rimasto inalterato e manca una partita in meno. Vabbè, chiaro. Grazie direttore, a presto. Ciao. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao. Allora torniamo subito dopo la borsa con un grandissimo ospite. Torneremo a San Siro ieri sera perché sono successe anche altre cose oltre ai gol, al calcio, alla partita, Ibrahimovic, tutte queste cose qui. Chiellini, Demiral, De Ligt sostituiti da Rugani e da Danilo, e il sacco di patate che sostituisce Dybala, cosa ne dite? Ma dai, su. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Il cielo di San Siro è questo vuoto solo apparente perché tutti stanno ascoltando, perché tutti stanno tributando. È il vento che sfiora le bandierine, è l'emozione dei protagonisti in campo per un grande uomo che ha rappresentato l'Italia, ma soprattutto per la forza, per la bellezza della musica che sa essere davvero eterna, come sa essere eterno lo sport quando diventa rappresentazione massima del gesto, della passione, dell'impegno, del superare il proprio limite. Beh, quando ci vuole ci vuole. Io oggi devo fare i complimenti al mio compagno di banco, il mio amico Pierluigi Pardo, per come ha gestito quel momento e per le parole che ha detto, perché già l'atmosfera è sufficientemente surreale, se vogliamo fastidiosa, senza pubblico. Ora, in un momento così così toccante non era affatto facile. Bravo Pier. Guarda, la cosa bella l'ha detta, veramente l'ha detto dal cuore, Francesco Guidolin, che non se l'era preparata. E ha detto una cosa secondo me enorme, di che peccato è stato e di che applauso ci sarebbe stato ieri da parte di San Siro, da parte di tutti gli altri stati, nel senso che ieri c'era veramente questa sensazione, stavamo tutti lì ad ascoltare quelle note con i giocatori che entravano in campo, la Lega di Serie A ha deciso di non fare un minuto, ha deciso di fare 4-5 minuti, quindi di accompagnare l'ingresso in campo dei giocatori con questa musica, con quell'immagine sullo schermo, e abbiamo visto gli occhi emozionati dei calciatori. Insomma, ieri il pubblico avrebbe tributato, si sarebbe emozionato ancora di più perché la passione per il calcio e per la musica ha molti punti in comune, perché Morricone, che era un grande appassionato di calcio, è un uomo che ha inseguito il talento e la passione per tutta la vita e ha rappresentato talento e passione ai livelli più alti possibili. E noi continuiamo a emozionarci anche in questo momento, perché è un'emozione sempre parlare con il maestro Andrea Bocelli. Ciao Andrea. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie. Guarda, io ieri sera ti ho ascoltato e come sai ti ho inviato un messaggio per Luigi quando ho sentito questa tua introduzione sulla musica del maestro Morricone, perché sono d'accordo con Carlo, è stato veramente un momento alto di cronaca, e io ero lì, poi inutile che ti dica che poi mi sono anche molto divertito alla partita, perché, cioè, però sì, il momento è tragico, il momento è è serio, è molto grave, perché vedere uno stadio come quello di San Siro in cui si gioca Milan-Juve senza pubblico è una cosa che ha dell'incredibile, a tutt'oggi è dell'incredibile. Qualche volta, i primi giorni del lockdown, mi toccavo e mi dicevo, ma sono sveglio o sto sognando? No? Perché probabilmente poi mi sveglierò. È stato difficile credere a quello a cui abbiamo assistito. Sì. E oggi la musica del maestro Morricone sarebbe prima linea, secondo me, a sperare, a fare tutto quello che è possibile per far risorgere il mondo della musica, che in questo momento è morto. Morto perché non si può andare a teatro in queste condizioni qui, e non si può andare a teatro, non ci sono i concerti. Io penso che questa non sia la strada giusta per sconfiggere il Covid, che no, si sconfigge da solo, insomma. Tant'è che l'ho anche in un certo senso dimostrato venendo nel giorno di Pasqua nella città simbolo del contagio, che era Milano. Sono venuto a cantare senza la mascherina, naturalmente, perché poi alla fine dei conti i rischi per la nostra vita iniziano quando si nasce, no? Sì. Il mondo è pieno di rischi, la vita presenta rischi a ogni momento, li presenta sulla strada, in mare, in cielo, dappertutto, e non per questo si smette di andare in macchina, in cielo o per mare, no? Non per questo si smette di vivere, Andrea. No, certo. Non certo. Si smette di vivere. Senti, Andrea. E poi io penso che non abbia senso neanche vivere da morti, vivere come dei morti, perché questa non è vita, insomma. Dimmi, Pier. Ci racconti da grande artista Chiara Morricone, facciamo un momento di uscita dal calcio, poi parliamo di Inter e di tutto il resto. Chiara Morricone, io ho, insomma, era veramente, io l'ho visto due volte nella mia vita, ci ho parlato una volta, è una di quelle persone veramente di un carisma naturale, dovuto all'arte, ma devo dire anche a una bonarietà, una simpatia, devo dire, forse di parte, molto romana, una visione molto, molto pop della vita, nel senso più bello, nel senso che aveva le passioni, amava gli scacchi, amava il calcio, amava la Roma nello specifico, ma insomma amava il pallone, la musica, però era gigantesco, no? Era enorme, era un'icona mondiale, aveva lavorato per tutti, aveva l'arte dentro di sé. Sì, io confermo tutto quello che dici, perché l'ho conosciuto, ci ho parlato alcune volte, mi ha dato delle sue canzoni, credo di averne cantate quattro. Una in un album di tanti anni fa che a me piaceva in particolare, si chiamava Un Canto, e poi ne ha scritte altre, poi ho cantato quella musica che abbiamo ascoltato prima insieme a Ariana Grande, Più ti penso, no? Si intitolava su quel tema lì che abbiamo ascoltato anche ieri sera allo stadio. Quindi diciamo che Morricone incarna quell'esempio di dono che viene dal cielo, no? Ciascuno, qualcuno di noi nasce con delle qualità delle quali non ha nessun merito, ma che ce l'ha, vengono dal cielo e le dona al mondo, perché poi lui ha lasciato questa musica meravigliosa che ci aiuta a vivere. Non è un modo di dire, è così. La musica, quando è bella e quando la si ascolta con la voglia veramente di ascoltare la musica, aiuta a vivere. Andrea, io ti chiederei un istante di pazienza, molto prosaicamente devo sentire il traffico, però non vorrei privarmi del tuo pensiero su quanto dicevamo prima, la musica, lo sport, la vita in queste condizioni. Non, è chiaro che non si può andare avanti, però io credo che anche per gli artisti e per i cantanti, così come per gli sportivi, sia un'emozione particolare vivere e lavorare senza sentire il contatto con la gente che sta lì. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Maestro Andrea Bocelli, collegato con noi, di nuovo lo ringrazio. E volevo, tu hai fatto quel discorso che io condivido totalmente: non bisogna abdicare alla vita e smettere di vivere, nonostante i pericoli che sono intorno a noi. Andrea, ma guarda, la paura è la via peggiore per combattere tutto quello che fa paura. Sì, hai citato la tua visita a Milano e ne abbiamo le immagini nella memoria. Cos'è per un artista, o per un giocatore, o per uno sportivo, non avere quel contatto con la gente che ti sta a vedere, ad ascoltare? Ma nella fattispecie per me non ha rappresentato un problema, perché io sono venuto a Milano con un doppio scopo. Primo, quello di pregare per me, per tutti, insieme a tutti. Quindi ho scelto dei brani tratti dalle pagine più belle di musica sacra. E il secondo era anche quello di lanciare un segnale, e venire a Milano, insomma, in quel momento, in quella città, in quelle condizioni, voleva dire: beh, ci vengo, non ho paura, affronto con il coraggio necessario quella situazione, no? E quindi essere senza pubblico per me in quel momento non è stato un problema. Credo però che per un giocatore di calcio trovarsi in uno stadio senza la spinta del pubblico, questo rappresenta un problema diverso, problema grosso. Sì, sì. Pier, vuoi chiedere ancora qualcosa? Vuoi sapere ancora qualcosa, Andrea? Una cosa volante sull'Inter, che ultimamente ha perso un po' di occasioni. Se un po' che... qualcuna, sì. Come la vedi, Andrea? Com'è la situazione? Ma l'Inter è pazza. L'Inter è sempre così, è una squadra incomprensibile. Io non sono un esperto di calcio, quindi voi mi fate parlare di cose che io non conosco. Però il fatto che ci si ritrovi poi sempre a segnare con dei difensori, che dei giocatori come Martinez se sbaglino dal dischetto, sono cose che lasciano perplessi, che fanno almeno sono spunto di riflessione. Non tanto per me quanto per il mister. Sì, da tifoso possiamo dire a Conte, puoi dire a Conte che può fare meglio rispetto a questa stagione. No. Io non mi azzarderei mai a fare una cosa del genere, perché sono abituato a essere molto rispettoso dei ruoli, perché in Italia c'è già troppa gente che parla a sproposito, no? Senza avere le caratteristiche necessarie, no? Io non voglio appartenere a questo gruppo. Io parlo di cose che so. Ripongo piena fiducia nel mister. E credo e spero che l'anno prossimo l'Inter possa fare molto meglio. Grazie, anche maestro. Poi non ha fatto molto male quest'anno, adesso poi perché bisogna anche vedere il bicchiere mezzo pieno. Sì, c'è ancora un'Europa League ad agosto. Sì, il processo di crescita è certo. Quello che sorprende è che in un momento così chiave della stagione, soprattutto la squadra di Conte, che è una squadra di Conte storicamente, insomma, sbagliano poco, abbia buttato via delle occasioni che oggi, alla luce anche di quello che è successo, poteva essere un altro fine. Non di vincere il campionato, ma di stare lì, perché oggi... Però da tifoso però obiettivo, cioè, adesso dobbiamo dire che comunque sulla carta la Juventus resta la squadra da battere, perché facciamo anche una valutazione aritmetica dei valori in campo, squadra della Juventus, nessuno si può accostare ancora a quella squadra lì. Vero. Quindi trovarsi lì a quella distanza, abbiamo perso delle occasioni, ma pazienza, le recupereremo il prossimo anno. Grazie maestro, grazie Andrea. Come buona sempre. Buona giornata a tutti. Ciao Andrea. Ciao, grazie ancora. Grazie Andrea Bocelli. Pierluigi, abbiamo pensa alla fortuna di Luciano dalla provincia di Belluno, ascoltatore in linea dopo Andrea Bocelli. Buongiorno. Ciao Luciano. Buongiorno, ciao, piacere ciao. Mio. Sono interista e sono contrario a quello che ha detto purtroppo Pardo. E le do dei semplici dati. Allora, l'Inter è uscita dalla Champions League essendo due volte in vantaggio con Barcellona e Borussia. È uscita dalla Coppa Italia con il Napoli essendo in vantaggio. Ha perso 18 punti con le piccole da situazione favorevole di vantaggio. L'Inter sarebbe a più 7 dalla Juventus senza aver incontrato la stessa Juve, Roma, Lazio, squadre grosse. Faccio l'esempio vinceva col Bologna, ha perso 2-1, vinceva col Sassuolo, pareggiato 3-3, vinceva col Cagliari, abbiamo fatto 1-1, vincevamo l'andata a Parma 1-0, abbiamo fatto 2-2, quindi? Vincevamo a Firenze 1-0, abbiamo fatto 1-1, vincevamo a Lecce 1-0, abbiamo fatto 1-1, abbiamo buttato via 18 punti con le medio piccole, quindi Conte bocciato. Bocciato. È inutile attaccarsi. Per questa propensione a subire le rimonte. No, ma io non è che io sono, l'ho detto io che soprattutto gli ultimi 5 punti con Sassuolo e Bologna sono veramente buttati via. Andrea Bocelli è ottimista per il futuro. Io sono ottimista per il futuro dell'Inter, lo ripeto, secondo me l'Inter ha tutte le caratteristiche per far bene nei prossimi anni. Se mi aspettavo qualcosa di più in questa fase della stagione, sicuramente sì. Mi aspettavo che vincesse col Bologna l'altro giorno. E col Sassuolo. E alla luce dei risultati delle altre squadre, se avesse fatto questi risultati, adesso sarebbe non la favorita per lo scudetto, ma sarebbe in corsa. Quindi ha avuto delle occasioni e le ha buttate via. Però ecco, da qui a dare un giudizio definitivo, io penso che si debba ripartire da Conte, che pure ha sbagliato delle cose. Non credo ci siano grossi dubbi da parte di nessuno nel ripartire da Conte. Io non credo, però poi... il magico mondo dei social, sì. Il magico mondo dei social, vabbè. Dei social. Ti chiedo un'ultima cosa, in un minuto e mezzo, quello che abbiamo, il tempo che ci resta, la Lazio si è fermata nello spogliatoio di Bergamo? Guarda, io sulla Lazio sono un po' impreparato perché ieri ero a San Siro e quindi l'ho intravista, ho letto, ho visto gli highlights, voglio vedermela bene. Io sai come la penso, io penso che prima del lockdown la Lazio fosse la favorita, l'ho detto tante volte, perché avevo una partita a settimana e stava benissimo. Oggi vengono fuori tanti problemini, è una squadra che sembra improvvisamente un po' scoppiata dal punto di vista fisico, che non ha, ma questo lo sapevamo in partenza, le alternative che ha la Juventus e nemmeno la stessa Inter, e quindi è in difficoltà. Detto questo, attenzione, l'altro giorno abbiamo 7 giorni al campionato, aspettiamo domenica. Sì. Aspettiamo domenica, vediamo se vince l'Atalanta, vediamo se vince l'Inter a Verona. E qui io credo che la Juve sia padrona completamente del suo destino, e dipenderà, come diceva Jacobelli prima, tutto da lei, dalla sua capacità di reazione. Però la prossima partita è con l'Atalanta. Certo. Quindi aspetterei un attimo. Se mi chiedi se me l'aspettavo questo calo, 0 punti fra Milan e Lecce, assolutamente no, non me l'aspettavo. Pensavo che ieri, soprattutto dopo essersi portato in vantaggio, con mestiere gestisse meglio la partita. Ma credo sia un problema essenzialmente fisico. Sì, fisico e di rendimento, credo, dei giocatori chiave, perché è vero che ha pochi ricambi la Lazio, che non è così profonda, ma soprattutto soffre anche, per esempio, ieri Acerbi c'era, ma ha giocato una pessima partita, la peggiore della stagione, in una stagione che è stata clamorosa quella di Acerbi. Poi c'è una tendenza di cui parlavano, per esempio, i giornali domani, ancora 2-3 settimane fa, erano impauriti da un calo abbastanza fisiologico che la Lazio ha avuto negli ultimi anni, nelle ultime giornate. Quest'anno sembrava una storia completamente diversa e... però insomma ci sta. Detto questo, comunque andrà a finire, questo lo dico, la Lazio avrà fatto una stagione incredibile, perché poi se no uno si dimentica le cose, ah, memorabile, cioè il fatto di essere qui a sognare lo scudetto in questo momento sembra un po' giù. I trionfi, ci sono i grandi risultati sportivi, un grande risultato sportivo secondo me in questa stagione la Lazio l'ha già raggiunto. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao, ti abbraccio. Grazie anche a Anita Panizza oggi in assistenza, con Claudia Schiattone in redazione, a Valeria Bernardi in regia. A domani alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti!